La gloria di Dio. Se una parola nella Bibbia non è correttamente compresa, non possiamo afferrare correttamente il messaggio di Dio. Una di queste, la parola gloria, si trova citata quasi 400 volte, per cui è più che opportuno comprenderla. Io stesso per anni ho letto la Bibbia senza comprendere il significato di questa parola, e specialmente un'espressione di Gesù riferita ai discepoli nella preghiera sacerdotale. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, Giovanni 17:22. Gesù ha dato quindi ai suoi discepoli la gloria che Dio gli aveva data. Se dunque io non comprendo cosa Gesù ha dato ai suoi discepoli e di conseguenza a tutti i cristiani, perdo una parte importante delle benedizioni di C.H. Spurgeon, uno dei grandi predicatori del XVIII secolo, compose un catechismo. E la prima domanda che ne faceva parte è: qual è il fine principale dell'uomo? La risposta è la seguente. Il fine principale dell'uomo è quello di glorificare Dio. Se non so cosa significa glorificare, cioè dare gloria a Dio, avrò mancato lo scopo principale della mia vita. Gli studiosi affermano che la parola gloria appartiene a uno di quei vocaboli che hanno subito nel corso del tempo una certa trasformazione dal suo uso originale. Il termine greco per la parola gloria è doxa, e il suo significato base nel greco classico profano è quello di opinione, veduta e considerazione, fama. In effetti, nel periodo delle votazioni, la parola doxa, che è una società che fa sondaggi elettorali, viene anche usata con il significato di opinione, di veduta della gente. I LXX, nel tradurre l'Antico Testamento, hanno ignorato il significato di opinione o veduta. Ed hanno invece valutato il secondo aspetto di considerazione, fama applicato per lo più a Dio. In questo modo si è completamente abbandonato il significato greco. ILXX, quindi, con il termine doxa, intesero indicare l'apparizione, la manifestazione di una persona, sottolineando l'impressione da essa provocata. In ebraico, il corrispondente di doxa è kabod, gloria, magnificenza. Infatti, quando la moglie di Phinehas, un figlio di Eli, seppe che il marito e lo suocero erano morti e che l'arca di Dio era stata presa dai filistei, nel dare alla luce suo figlio lo chiamò Ichabod, cioè la gloria di Dio si è allontanata da Israele. La gloria di Dio quindi non indica l'essenza di Dio, ma il modo di manifestarsi. Ecco perché quando il salmista ammira i cieli può dire: i cieli raccontano la gloria di Dio, e il firmamento annunzia l'opera delle sue mani, Salmo 19:1-2. Il firmamento manifesta la potenza di può Dio. Quando il popolo di Israele si lamentò perché non aveva da mangiare, Dio gli diede la manna e le quaglie. Mosè disse al popolo: domattina e stasera vedrete la gloria di Dio. Il popolo vide la potenza e l'amore di Dio. Quando Mosè andò sul monte apparve la gloria di Yahweh che si manifestava con un fuoco divorante sulla cima del monte. E così pure Pietro, Giacomo e Giovanni videro la gloria di Gesù sul monte della Trasfigurazione. Quando Gesù risuscitò Lazzaro, coloro che credettero videro la gloria di Dio. Le caratteristiche di Dio, quali l'amore, la potenza, la santità, si manifestano quindi in mille modi che la Bibbia chiama gloria. La parola gloria, doxa, la troviamo pure al capitolo 11 dei Corinzi riguardo all'abbigliamento. Poiché quanto all'uomo, egli non deve coprirsi il capo essendo immagine e gloria di Dio. Ma la donna è la gloria dell'uomo. Perché l'uomo non viene dalla donna, ma la donna dall'uomo. E l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Perciò la donna deve, a causa degli angeli, avere sul capo un segno di autorità. L'uomo non deve avere il capo coperto, perché egli è il solo ad essere la gloria di Dio, mentre la donna deve avere il capo coperto perché è la gloria dell'uomo. Credo che sia inutile fare i sordi o accettare solo ciò che ci piace di ciò che Paolo comanda. Spesso si elimina la problematica del velo delle donne, argomentando che è questione di cultura, ma Paolo afferma che le donne in assemblea devono essere velate quando pregano o profetizzano per un principio divino. Solo l'uomo è immagine e gloria di Dio, non perché è più intelligente o più forte della donna, ma perché è stato creato per primo. La donna ha un suo posto particolare. Essa ha con l'uomo una relazione che nessun altro essere ha. E per questo è la gloria dell'uomo, perché è stata creata per l'uomo. Le donne e gli uomini sono chiamati ad ubbidire a quanto Dio ci ha rivelato, perché il giudizio, se non ubbidiscono a tale principio, gli viene da Dio e non dall'uomo. Ma la gloria di Dio si è manifestata in particolare modo in Gesù Cristo, e la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come quella di unigenito dal Padre, Giovanni 1,14. I discepoli avevano visto le opere di Gesù, opere di guarigione, misericordia, amore e pazienza, essi avevano contemplato la manifestazione di Dio sulla terra. Ma la gloria di Dio è anche altrove. Il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. 2 Corinzi 4,6. Che cosa vediamo nel volto di Gesù Cristo? Noi possiamo contemplare non solo la luce della conoscenza di Dio, ma la luce della conoscenza della gloria di Dio. In Cristo, o meglio nel volto di Cristo, non vediamo solo Dio, ma la gloria di Dio manifestata. Questa verità ci dà una comprensione nuova di ciò che rende glorioso Dio e ci coglie come una sorpresa se non come uno shock. La parola profetica del profeta Isaia ci dice riguardo a Gesù che egli non aveva forma né bellezza da attirare gli sguardi, né aspetto tale da piacerci, e che il suo volto era disfatto al punto da non sembrare più un uomo e il suo aspetto al punto da non sembrare più un figlio d'uomo. Isaia 53, 2 e 52,14. Il che può essere tradotto, il suo volto era talmente sfigurato e deturpato da non essere più il volto di un uomo. Qualcuno penserà che questa non è la visione della gloria di Gesù, ma dell'ignominia e della vergogna. Ma si tratta della gloria di Dio, perché la gloria di Dio consiste in qualcosa di diverso da quello che supponiamo noi. Noi pensiamo che la gloria di Dio consista nelle stesse cose in cui consiste la gloria dell'uomo, sebbene in misura più grande. Così se la gloria dell'uomo consiste nell'essere grande, nel riuscire, nel dominare, nell'abbassare gli altri per esaltare se stessi, pensiamo che la gloria di Dio consista appunto nella sua potenza, nella sua forza e dominio. In effetti è così, ma non sempre. La gloria di Dio consiste anche nell'umiliare se stesso, nel donare suo figlio, nel morire come un malfattore per manifestare la sua grazia per coloro che non la meritano. Quando Mosè chiese a Yahweh di vedere la sua gloria, la sua risposta fu: «Io farò passare davanti a te tutta la mia bontà». Yahweh non disse che avrebbe fatto passare tutta la sua forza, il suo splendore, la sua santità, ma la sua bontà verso il peccatore. La gloria di Dio è la sua grazia, Efesini 1,6. La sua capacità di perdonare il peccatore, di umiliarsi per innalzare la sua creatura. Nel volto di Gesù, quel volto umiliato, sputato, schernito, noi vediamo la gloria di Dio. Quando Gesù disse «L'ora è venuta che il Figlio dell'uomo deve essere glorificato», Giovanni 1:23, se non conoscessimo gli Evangeli noi penseremmo subito che Gesù si riferisse ad un'ora in cui sarebbe stato innalzato o onorato. Ma con sorpresa scopriamo che egli è stato innalzato sì, ma su di una croce. La morte infamante di Gesù è stata la sua gloria perché ha spogliato i principati e le potenze. Ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Colossesi 2:15. Fatte queste considerazioni, non stupisce quindi leggere che è gloria di Dio nascondere le cose. Proverbi 25:2. Il Dio dei cristiani è un Dio di rivelazione, ma altresì un Dio che si nasconde nel caso e nelle circostanze normali della vita. Quando Yahweh si fece uomo fu uno degli eventi più gloriosi, ma il tutto si svolse nell'ambito della quotidianità. Quando Gesù Cristo tornerà sarà un evento grandioso e glorioso, ma benché molti abbiano fantasticato sul suo ritorno, esso si inserirà in circostanze del tutto normali, anche se drammatiche, sono più gli eventi della vita che non comprendiamo che quelli comprensibili, e questo non deve essere un motivo di sfiducia ma di lode, perché fa parte della gloria di Dio. Quando io ho applicato il mio cuore a conoscere la sapienza e a considerare l'affannarsi che si fa sulla terra, anche se uno non concede riposo ai propri occhi né giorno né notte, allora ho visto tutta l'opera di Dio, che l'uomo non può arrivare a scoprire tutto ciò che si fa sotto il sole perché, anche se l'uomo si affatica a cercare, non riesce a scoprirlo, e anche se il saggio dice di sapere, non è in grado di. I passi dell'uomo sono dall'Eterno, come può quindi l'uomo conoscere la propria via? Proverbi 20 e 24. Dio tuona meravigliosamente con la sua voce e fa grandi cose che non possiamo comprendere. Giobbe 37, 5. Quando lodiamo e ringraziamo Dio per la sua gloria, teniamo presente altresì l'aspetto che lo stiamo ringraziando, anche se ci sono cose che non comprendiamo. E noi? Qual è la nostra gloria? Innanzitutto sta scritto che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. L'uomo non ha nessuna gloria perché essa appartiene solo a Dio, ma Gesù ha dato ai suoi la gloria che gli ha data il Padre. Lo Spirito Santo. Secondo la Scrittura, lo Spirito Santo è uno spirito di gloria. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi, perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. 1 Pietro 4,14. Mediante lo Spirito Santo i cristiani sono diventati figli di Dio. Egli è una caparra, un anticipo che apparterranno per sempre a Dio facendoli diventare partecipi della sua natura. Come figli di Dio i cristiani sono eredi e coeredi di Cristo, hanno i beni che Dio ha dato a Cristo. Ma questo è solo un aspetto della gloria di Dio. I cristiani sono chiamati a glorificare Dio con una vita simile a quella di suo figlio. Leggiamo infatti: il frutto dell'umiltà e del timore del Signore è ricchezza, gloria e vita. Proverbi 22, 4. E una gloria per l'uomo l'astenersi dalle contese. Proverbi 23. Quando Gesù donò la gloria ai suoi discepoli, li fece partecipi della sua potenza di fare miracoli, di testimoniare, di essere santi, di non aver timore o paura, ma li fece altresì partecipi della capacità di morire per lui, di essere, come disse Paolo, deboli, disprezzati, di soffrire la sete e la fame, di essere schiaffeggiati, senza dimora, ingiuriati, perseguitati, diffamati, di essere la spazzatura del mondo e il rifiuto di tutti. Non vi è nulla di più facile per un cristiano del cadere nell'orgoglio. Orgoglio non tanto per le cose del mondo, ma per quelle di Dio. L'apostolo Paolo è stato grande in sapienza, in intelligenza, eppure ebbe a dire: «E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi, affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: la mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amor di Cristo, perché, quando sono debole, allora sono forte. 2 Corinzi 12, 7, 10. Parole belle da leggere, ma difficili da realizzare. Quando noi desideriamo dare gloria a Dio, quando desideriamo glorificare il suo nome, dobbiamo sapere bene che cosa intendiamo affermare. Si glorifica Dio quando si compiono cose notevoli, come vincere una tentazione, testimoniare con franchezza, compiere guarigioni, ma si glorifica Dio non solo quando si è innalzati, ma anche quando si è abbassati. Quando Acan peccò, lo invitarono a dare gloria a Dio col confessare il suo peccato. Si glorifica Dio quando camminiamo per fede senza comprendere i piani di Dio, quando si accettano per fede le prove della vita, quando si perdona di tutto cuore, quando si accettano ingiustizie per amore, quando si è umiliati e Dio è innalzato. E tutto questo in attesa di realizzare la richiesta che Gesù rivolse al Padre: Padre, io voglio che, dove sono io, siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria. Giovanni 17, 24. Gesù ha dato ai suoi discepoli la gloria che ha ricevuto dal Padre, ma ha pure chiesto che un giorno potessimo vedere la sua gloria. Non so che cosa ci aspetta come cristiani, non posso concepire la gloria futura. Ma se la gloria che abbiamo conosciuta sulla terra ci fa rimanere senza parole, come ci comporteremo in cielo? Non a caso il libro dell'Apocalisse, che narra l'attività dei credenti in cielo, presenta i salvati di ogni epoca in atteggiamento di adorazione e di riconoscenza. L'adorazione sarà, sopra ad ogni cosa, la disposizione d'animo più consona al cielo. Se questo è il nostro futuro, perché non cominciare ora ad avere, sia nella cattiva che nella buona sorte, una vita di adorazione e di riconoscenza? Siate riconoscenti, Colossesi 3:15. In questo comandamento sta racchiuso tutto il segreto di una vita vittoriosa. Chi è riconoscente è felice. Chi è riconoscente è soddisfatto. Chi è riconoscente fa del bene. Chi è riconoscente stimola riconoscenza. Chi è riconoscente apprezza quello che ha. Chi è riconoscente gode quello che ha. Chi è riconoscente non fa nascere contese. Chi è riconoscente è positivo in tutto. Chi è riconoscente disarma l'odio. Chi è riconoscente dorme, lavora, si addormenta appagato. Chi è riconoscente dà gloria a Dio. Chi dà gloria a Dio raggiunge lo scopo della sua vita. Dicembre 1998. Ellero.